Il punto di Stefano Folli. Ci voleva molto ottimismo, troppo, per credere che Grillo si sarebbe fatto imbrigliare in un negoziato vecchia maniera per fissare un programma comune di governo. E poi da chi? Da Bersani, dal PD, i suoi bersagli polemici preferiti, i suoi avversari, ai quali ha sottratto una gran quantità di voti nei giorni scorsi. Diciamo che era opportuno, forse necessario, che Bersani tentasse un'apertura. Ma ora che l'operazione è fallita, magari avendo creato una prima linea di frattura all'interno dei 5 Stelle, dove c'è anche un'ala morbida, beh, ora serve un'iniziativa diversa per dare un governo al Paese. Non si può negare in via di principio la possibilità di fare un tratto di strada, magari breve e molto concreto, con la destra di Berlusconi. L'importante è avere le idee chiare e fare tutto alla luce del sole, cioè in Parlamento. Sullo sfondo Napolitano vigila. Ieri dalla Germania il Presidente ha fatto capire di voler svolgere un ruolo da protagonista e senza dubbio ci riuscirà.